12. In presidenza. In presidenza ci sono tutti. Alex e Joe, le investigatrici, la preside, la professoressa di lettere, la signora Mariella, Tozzi, De Belli e i loro genitori. Signori, dice la preside ai genitori di Tozzi e De Belli, i vostri figli hanno rubato i soldi del giornalino della scuola. Con i soldi hanno comprato una PlayStation. Non è possibile, dicono i genitori di De Belli. Non è vero, urlano i genitori di Tozzi. Non è vero, non siamo stati noi, non abbiamo comprato la PlayStation. Urlano Tozzi e De Belli. Abbiamo le prove, dice la preside e racconta la storia della banconota con il cuoricino. I genitori di Tozzi e De Belli sono molto stupiti. È stato lui, dice Tozzi e guarda De Belli. Non è vero, è stato lui, dice De Belli. La preside fa vedere il film di Alexandra. I genitori sono molto dispiaciuti. Chiedono scusa a Giovanna e Alexandra, alla preside, alla signora Mariella. Vi diamo noi i soldi del giornalino, dicono i genitori di Tozzi. Le diamo noi i soldi della ruota tagliata, dicono i genitori di De Belli alla signora Mariella. Anche Tozzi e De Belli chiedono scusa. Per un mese dovranno aiutare la signora Mariella a fare le pulizie. Il giorno dopo, quando Alexandra e Giovanna arrivano a scuola, tutti le guardano. Molti ragazzi applaudono. Alexandra ha ancora un po' male al braccio, ma è felice.